ricordiamo il male, gli occhi, le mani, l'odore del miele, un foglio spezzato, la collana di pelle, poi siede in estate, la notte.